me? Che dici? Fuggito? Come mai? Non mi capacito! Ah, non si perda il tempo, si deve ritrovare. Lo fracassi, precipizi, ruine, presto varino tutti. Ma già siamo e non tutti! Buonanotte, o giorno, si mandi, si spedisca e ricercarla. E no, ti andrò in persona per trovarla. Da una parte mi spiace, ma dall'altra se l'è andata cercando. E oggigiorno, politica civile.